Factory. Sono al telefono con noi gli autori di questa bellissima canzone, ovvero Frank Carpentieri e Antonio De Carmine, detto però Principe. Ciao ragazzi, benvenuti. Buongiorno a tutti. Ciao a tutti e due. Benvenuti. Li abbiamo in via voce, così riusciamo a beccarli tutti e due. Avete fatto molto sorridere, sono Frank, avete fatto molto sorridere, fatto zio cuore mio. L'hai sentito, dai, capito? Ma io penso che tu sia del sud calabrese. Io sono non solo calabrese, sono di quella parte di Calabria che in fin dei conti è più Campania che Calabria, perché sono originario di Scalea. Allora abbiamo fatto qualche serata là, diciamo, abbiamo capito, no? Però mi ha fatto molto ridere, tu sio cuore mio, è sempre strano quando... Ma non è la prima volta che glielo dico, ma gliel'ho detto tante tante volte che ho cuore mio, no Gardini? No, guarda, io sì. Ti confido questa cosa, noi abbiamo fatto il pezzo per farti dire cuore mio. Okay. Grazie. Ce l'avete fatta. Grazie. Avete raggiunto l'apice della vostra carriera in questo momento. Sentite, io voglio iniziare subito con una cosa, perché l'ho letta e oggi la Gardini siamo rimasti lì. Allora, voi siete un duo, c'è Frank Carpentieri e poi c'è Antonio De Carmine. Antonio De Carmine è soprannominato soprannominato Principe perché per un periodo ha vissuto all'interno del castello del Maschio Angioino a Napoli. Come è fatta a vivere dentro al Maschio Angioino a Napoli? Figata. E infatti, diciamo, gran parte della mia vita, insomma, sono uscito da qualche anno, quindi tutta la mia infanzia, insomma, la mia più importante, diciamo, quella inconsapevole, soprattutto perché finché ci abiti non te ne accorgi. Finché ci vivi, finché ci cresci, dal giocare a nascondino fino ad avere lo studio di registrazione dove ho ospitato da Caterina Caselli a tantissimi artisti. Ok. Non ci fai caso. Nel momento in cui metti piede fuori dal Maschio Angioino e ti rendi conto di un condominio, di quello che possa essere la vita quotidiana all'esterno, tu ti rendi conto della fortuna, perché finché ci stai all'interno, insomma, te ne accorgi. C'è assolutamente. Io mo non era coordinatore e quindi sì. Avevamo diritto, insomma, all'abitazione, un'abitazione enorme, perché avevamo oltre 14 stanze, insomma, dentro le quali, insomma, nella Torre San Giorgio avevo questo studio di registrazione. Mamma mia, cioè, in poche parole sono Frank, cioè in poche parole giocava a nascondino con Dracula. Cioè, lì, cavolo, a trovarsi però, perché il Maschio Angioino è bello grande, infatti io... qualcuno che sta ancora cercando. Noi, guarda, non volevamo farci i fatti tuoi, però questa cosa del Maschio Angioino ci ha veramente affascinato, perché non è usuale trovare qualcuno che vive in posti del genere. Mentre, passando dal dove abitate al cora suonate, voi avete fatto i vostri percorsi, fate anche appunto tante tante cose separatamente, adesso vi siete trovati però in questo progetto comune. Sì, ci siamo ritrovati. Vi siete ritrovati, ok. Una promessa fatta un bel po' di anni fa, io e Frank siamo amici da sempre, quindi ogni volta che ci siamo sfiorati, una delle ultime è stata al concerto che lui ha fatto quest'open a Elton John a Piazza del Plebiscito. Mi permetti un commento all'aprire ad Elton John? Minchia, era questo il commento, cioè, diamine, aprire ad Elton John, wow! Sì, ha fatto questo open bellissimo, Frank, io ero là praticamente e assistevo nel backstage, lui è sceso dopo la performance e ha detto: Frank, è arrivato il momento che caliamo questa napoletanità, che io scrivo il mio modo di fare cantastorie e cantautorato all'interno di queste sonorità. Frank chiaramente è impazzito, perché questa cosa lui la cercava da sempre, e abbiamo finalmente messo mano a questo primo singolo che è Core Mio. Noi abbiamo firmato per due album, quindi sarà un percorso molto lungo. Avrete tanto tempo per stare insieme. Sì. Comunque, volevo una cosa banale: quanto è musicale il napoletano? Cioè, secondo me è musicale, cioè per musicalità può essere forse secondo solo all'inglese. Guarda, credo primo, perché mentre l'inglese ha delle sillabe, insomma, che chiudono noi abbiamo, insomma, questa che è un po' più rafforzativa di consonante, no? Appunto Cormiglio, Song K, insomma, questi rafforzativo, no? Cioè, tutto quello che è probabilmente ruota intorno alla lingua napoletana, e lo testimoniano poi tutte le opere culturali, dal teatro fino alle canzoni che hanno cantato da Elvis Presley fino a gli ultimi YouTube, no? Ognuno sfiora sempre una canzone napoletana, proprio probabilmente perché è piacevole sia nel suono, nell'ascolto, e di questa cosa ne andiamo molto fieri, immagino. Certo, io sono molto contento di questo rinascimento napoletano, perché vedo non solo una città, ma anche proprio un movimento intorno adesso a Napoli. Adesso Frank perché freme. Sì, Frank, dimmi. Passacelo. No, perché sul rinascimento sono io, diciamo. Ok, sei tu la parte rinascimentale. Sono il funzionario, tanto lo sanno tutti, e sono un uomo di sinistra. Cioè, ok. Cioè dirlo io in radio apertamente sono il funzionario. Non c'è problema, non c'è problema, figurati. Diciamo, sì, Napoli sta avendo un'evoluzione importante, ti ringrazio che l'hai detto, perché non tutti li citano sta roba come se non gli facesse piacere, invece noi siamo molto felici. Ma guarda, io ne sono felicissimo, sono stato a Napoli un anno, circa 2 anni fa, e ci sono stato davvero per pochissimo tempo, ho passato lì circa 36 ore e sono stato in centro. Adesso non voglio dire che tutta Napoli è senza problemi ed è sparito tutto quello che c'è di brutto, no, ci sono dei problemi come ci sono in tutte le città, però sono stato nella zona centrale. Nella zona nostra, diciamo, noi siamo del centro storico. Ok, io ero nella zona dei quartieri spagnoli, alloggiavo lì, e personalmente è il posto più bello che abbia visto in Italia. Non ho visto un posto più bello però in Italia. Dicevo questa cosa perché parlavamo pure di cultura, no? Cioè, certo. Di cultura, per esempio, ti faccio un esempio, no? Cioè, X Factor, no? C'è due partenopei, ok? Cioè mai ci devono dare comunque confidenza, che appena ci danno un po' di confidenza noi non ci fermiamo più. È questo, diciamo, il concetto. Frank, ve la diamo noi la confidenza, non ti preoccupare, noi tutta la confidenza che volete. No, dico, cioè, un po' se uno ti fa, diciamo, esprimere quello che hai, poi è molto più facile. Capisco. Io sono contento di questa... Vai, velocissimo che dobbiamo chiudere, vai. Sono contento di questa cosa, però volevo ringraziare comunque Radio Donato, la Warner, volevo ringraziare Tunnel Produzioni, Radio Fucico, che ci ha dato questa possibilità stamattina di fare questa simpatica e bella intervista. Da noi siete sempre di casa, soprattutto se qualche volta passate per Bologna, noi vi aspettiamo qui in studio. Che è una nostra seconda patria, Bologna nel nostro cuore. Venite, quando volete, noi siamo qua, però se venite non vi presentate a mani vuote e portate almeno 2 sfogliatelle, se no non vi facciamo entrare. Sempre. Va bene? Vi ringraziamo. Quello che stiamo guadagnando lo stiamo sfogliando. Tutti sfogliate, perfetto. In bocca al lupo e buon Natale. Grazie. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao.